Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Rapidamente la mail, un abuso al giorno @radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri sulla home page del Sole 24 Ore. E vi ricordo ancora che se volete scaricare le puntate di questa o anche di altre trasmissioni di Radio 24, basta che andiate sul sito e lì scaricate per ordine cronologico, per tipologia, per trasmissione, tutto ciò che volete. Allora, ieri abbiamo cominciato a parlare di furti di beni archeologici, soprattutto in ambito sepolcrale, quindi arredi funerari e quant'altro, a seguito di un'importantissima operazione che si chiama Augusto Imperatore. Il nome dell'operazione è Augusto Imperatore, che è stata svolta dalla Guardia di Finanza alcuni giorni fa e che è stata condotta in sinergia con gli Stati Uniti d'America, talmente importante appunto che in sede di conferenza stampa era presente anche l'ambasciatore americano in Italia, David Thorne. Allora, ieri abbiamo sentito il comandante della Guardia di Finanza del gruppo di tutela del patrimonio archeologico, il capitano Massimo Rossi, che ci ha raccontato, diciamo così, della cura con la quale hanno svolto questa indagine. Abbiamo anche sentito che il prezzo, il valore commerciale di questi beni trafugati in alcuni casi è incalcolabile. Abbiamo cominciato a vedere e a parlare anche dei mercati di sbocco: Giappone, Stati Uniti, paesi arabi, insomma, là dove la pecunia gira o forse girava, comunque ancora il mercato c'è. Abbiamo cominciato a parlare con Sao Cevoli, direttore dell'Osservatorio Internazionale delle Archeomafie e presidente dell'Associazione Nazionale degli Archeologi, non solo della stessa operazione, ma anche di come noi italiani siamo bravissimi a farci del male e a colpirci autonomamente senza che nessuno ci aiuti, laddove siamo, diciamo così, primi al mondo, siamo primi al mondo nella ricchezza dei giacimenti culturali. Ebbene, Cevoli ci stava raccontando che un concorso indetto per un pugno di archeologi è stato preso d'assalto da migliaia di concorrenti. In realtà di questi ne verranno presi pochissimi e poi con il tempo, tanto voglio dire, in Italia il tempo c'è sempre per farsi del male. L'agonia è lo sport praticato in Italia, è quello che noi preferiamo. Cevoli, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, la cosa che mi stava colpendo ieri era proprio questo qui, cioè lei diceva le sovrintendenze saranno sempre più impoverite vista l'assenza di nuove forze, di linfe fresche. È straordinario. Bondi sarà sicuramente contento di questo, no, il ministro Bondi? Ma guardi, il problema della tutela in Italia è che noi abbiamo un sistema teoricamente perfetto, cioè legislativo, abbiamo una tradizione di tutela del patrimonio culturale che addirittura risale agli stati preunitari, quindi addirittura prima dell'Unità d'Italia, e siamo stati un modello anche per il resto del mondo come legislazione di tutela. Il problema è mettere in pratica queste cose. Se le strutture delle soprintendenze, che sono addette appunto al controllo del territorio, non hanno le risorse economiche, le risorse umane per farlo, e se le categorie di professionisti che operano concretamente poi sul territorio, mi riferisco a archeologi, restauratori, archivisti, addirittura abbiamo il paradosso che non hanno un riconoscimento della professione, questo dimostra il perché siano corsi in 5.500 per un concorso di 30 posti, perché l'alternativa al lavoro pubblico spesso è una precarietà e quindi una professione svilita nel suo operare quotidiano. Allora, e quindi abbiamo una tutela teorica, legislativa perfetta, ma nel concreto non si riesce a intervenire. Benissimo, la ringrazio di questa risposta e do il buongiorno al comandante della Guardia di Finanza Massimo Rossi. Buongiorno a voi. Rossi. Buongiorno, eccoci. Ma allora anche voi avete difficoltà negli organici, nelle forze dedicate alla splendida opera che, come dire, ogni giorno seguite in maniera con passione, oserei dire, oppure invece siete talmente tanti che potete prendervela comoda, andate in vacanza, vi rilassate, tanto comunque c'è chi scova questi tombaroli ogni giorno e quindi ve la potete prendere comoda. No, purtroppo non è così, io opero all'interno di un gruppo che ha poco più di 40 unità appunto di militari, che opera sull'intero territorio nazionale, ovviamente con delle derivazioni periferiche, altrimenti non si potrebbe tutelare tutto. Tuttavia, molti di questi siti così da vigilare, ecco, rimangono sì, appunto non vigilati, perché non si può pretendere di destinare una guardiania appunto nei siti archeologici, del resto col nostro territorio è un museo a cielo aperto, non si può veramente, ecco, adesso nella locuzione così più popolare, infatti l'Italia è definita così, un museo a cielo aperto, certo, non sono intera certo, area, certo. Non a caso abbiamo oltre 40 siti UNESCO. E riconosciuti e tutelati, certo. Sì. Allora io do il buongiorno all'ultimo ospite di queste due giornate dedicate agli abusi che vengono quotidianamente fatti, ricordiamoci i nuraghi sardi ad esempio, un altro scempio micidiale, che vengono quotidianamente fatti nel nostro bel territorio. Buongiorno ad Antonio Pergolizzi, coordinatore dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente. Buongiorno Pergolizzi. Buongiorno a voi. Allora, parliamo con lei di un tema che abbiamo cominciato ad accennare con il comandante Rossi e anche con il direttore dell'Osservatorio Internazionale delle Arcomafie, Cevoli. Allora, le mani delle mafie nazionali e internazionali su questo business. Ci parli un po' di questo, Pergolizzi. L'archeomafia, quella che noi chiamiamo archeomafia, è uno dei temi cruciali del nostro rapporto ecomafia. Quello che noi abbiamo constatato nel 2008, così come negli altri anni, ed è quanto sostiene anche il generale Giovanni Mistri, che è il comandante dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, dietro questi traffici, il cui valore è assolutamente incalcolabile, spesso ci sono le mani della criminalità organizzata di tipo mafioso e addirittura veri e propri movimenti terroristici. Questo è quanto abbiamo potuto accertare. La cosa incredibile è che questi furti e comunque trafugamenti e commerci illegali avvengono su tutto il territorio nazionale e sono diretti anche all'estero. Come abbiamo avuto appunto modo di sentire dal comandante Rossi. Sì, basti dare un dato che soltanto nel 2008 ci sono stati 1031 furti di opere d'arte, si fa qualcosa come quasi 3 furti al giorno. Oggetti trafugati sono stati 15.837, per capire l'entità di un fenomeno che diciamo non è sempre sotto gli occhi dei media, non c'è certo. Una grande attenzione, ma che continua a distruggere e a privare il nostro patrimonio culturale di alcuni pezzi decisamente importanti. Ecco, non c'è una grande attenzione per Gorizia, anche perché, le faccio questa domanda, perché magari fa un po' comodo a tutti che la guardia sia abbassata, intendo dire a chi commercia abusivamente, a chi commercia illegalmente e poi rimette sul mercato questi pezzi, penso ad esempio agli antiquari disonesti, ai clienti disonesti che magari vanno proprio in cerca dell'oggetto trafugato a Pompei piuttosto che in una tomba etrusca e quant'altro. Cioè la guardia è abbassata anche per colpa nostra, della società civile, per colizio, oppure una sensazione errata? Sì, anche questo, cioè non è difficile trovare nelle case oggetti trafugati anche da semplici cittadini, cioè anche uno sport al quale gli italiani sono stati abituati negli anni. C'è anche questo, come c'è anche una cultura che in qualche modo tende ad accettare questo tipo di traffico. L'Italia è un paese che ha talmente tante di quelle opere certo. d'arte, di quei siti archeologici, che controllarli sarebbe la cosa migliore che può fare il nostro paese. Assolutamente. Ecco, ma a proposito di controllo, vorrei fare la stessa domanda a tutti e tre, quindi vi prego la sintesi, perché purtroppo la trasmissione, ahimè, dura troppo poco. Sintesi massima per Golizzi: gli enti locali, i comuni, i municipi, chi governa il territorio è attento o spesso non gliene frega proprio nulla? Purtroppo constatiamo che spesso c'è una disattenzione abbastanza diffusa, purtroppo. Ecco, questo è quello che pensa Legambiente. Cevoli, lei invece, quale presidente dell'Associazione Nazionale degli Archeologi, oltre che direttore dell'Osservatorio Internazionale sulle Archeomafie, vede disattenzione da parte dei governanti locali oppure no? Ma guardi, il problema non può essere rovesciato, io credo, sul livello locale. Se il procuratore nazionale antimafia Grasso ebbe a dire tempo fa che quello delle archeomafie è probabilmente il terzo grande business della mafia, e quindi dopo droga e armi, e guardiamo la sproporzione che c'è tra le risorse umane e finanziarie impiegate nel contrastare gli altri due fenomeni. Quindi noi riusciamo a cogliere solo la punta dell'iceberg, certo. E poi pretendere di rovesciare il controllo sugli enti locali, che certo possono collaborare, ma difficile che si possano sostituire. Sì, Cevoli, però io non lo sottovaluterei, perché il territorio nessuno lo conosce come chi lo abita, quindi su questo vorrei sentire una battuta del capitano Rossi, del comandante Rossi, e nel frattempo ovviamente ringrazio tutti e tre per la vostra cortese e gentile attenzione a questi temi. Prego, comandante Rossi. Sì, sono d'accordo con Cevoli e Pergonizzi e sono del parere che andrebbe potenziato forse il coordinamento tra comuni e sovrintendenze sul territorio. Ecco. Questo bene. Sicuramente. Bene, bene. Allora io ringrazio veramente di cuore i nostri tre ospiti. In regia Carmelo Lauricella, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.